passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Alle 18.39 in diretta con voi per la zanzara, i vostri interventi fino alle 21 per commentare i fatti del giorno. 800 24 00 24 è il numero di telefono, sms al 349 238 6666. I titoli del TG2, sentiamo. Assunzioni facili a Napoli, difesa a tutto campo di Mastella, mai preso soldi, ho segnalato povera gente, vittima di un'enorme ingiustizia, vado avanti, interrogata la moglie. Allo studio tagli graduali all'IRAP, sino alla sua soppressione, l'annuncio in un messaggio di Berlusconi agli artigiani. L'obiettivo? Aumentare consumi e investimenti. La Procura di Roma chiede l'oscuramento delle pagine di Facebook contro Berlusconi. Minacce, abusi, anonimato, tutti i rischi della rete. Dopo 4 anni di assenza torna a cantare dal vivo Eros Ramazzotti, prima tappa allo Stadium di Rimini, dove ha aperto il suo tour mondiale, oltre 2 ore di show. Insomma, oggi cosa c'è nel menu per i vostri interventi? Vi propongo la difesa di Mastella per chiedervi semplicemente se vi sembra convincente oppure no. Partiamo. Io non ho mai preso una lira in vita mia. Sono una persona per bene, una persona pulita. In 32 anni di vita parlamentare non c'è stata mai traccia rispetto alla mia persona che offuscasse la mia persona per qualche elemento che avesse appartenenza con la illegalità o col malaffare. Riprendiamo ideali, la fiducia. Poi c'è l'esaltazione, se volete, della segnalazione. La segnalazione, non la raccomandazione, perché ci tiene Mastella a fare una distinzione tra segnalazione e raccomandazione. Rivendico che laddove c'è una necessità o un bisogno, segnali, rivendico la mia storia, rivendico il fatto che sono nato qua nel Mezzogiorno, dove il bisogno è più marcato, dove ogni parlamentare o la maggior parte di noi ha problemi rispetto all'impatto con gente che non ce la fa e che ha sofferenza. Quando andremo davanti al tribunale farò vedere le persone eventualmente che ho segnalato e vedrete se ho segnato ricchi o segnalato poveri. Ho segnato povera gente che aveva difficoltà, mi spiace per altra povera gente che aveva analoghe difficoltà e non si riesce, ma se uno ti viene evidentemente da te hai il dovere di farlo. E il mio motto che riguarda me, riguarda mia moglie, è stato sempre quello di chiedere a tutti, laddove si chiedeva, che ogni cosa dovesse avvenire secondo criteri e regole di comportamenti che fossero in linea con i dati di natura legale. Valori che sono al centro di noi tutti e della società. La difesa della vita, la certezza nel domani, il sorriso di chissà. Ritrovare. Avete sentito? È stupenda la distinzione tra la segnalazione di un ricco e la segnalazione di un povero, cioè la rivendicazione del fatto che un politico può segnalare, per carità, poi tutto, secondo Mastella, dovrebbe avvenire entro i limiti e i criteri fissati dalla legge, che peraltro spesso sono piuttosto fumosi, ma questa è una parentesi. La segnalazione per i poveri, la segnalazione per i ricchi, cioè i poveri si devono segnalare per un lavoro eccetera, i ricchi no. Ho segnalato meno dell'Italia dei Valori nella mia vita. Io non posso accettare l'idea che il mio partito sia un partito di persone poco serie e poco per bene. Non posso accettare l'idea per la quale sono consegnato davanti oggi alle vostre telecamere, ai vostri taccuini, per essere uno che se fa segnalazioni, per quanto lo riguarda, costituisce motivo di reato. Ho fatto il calcolo, ho fatto meno segnalazioni di quello che hanno fatto gli amici dell'Italia dei Valori. Fate il calcolo, io ne ho fatti 26 da quello che apparirebbe, perché non so, no? Italia dei Valori con i suoi rappresentanti senatoriali oggi e consiglieri regionali ha fatti 27. Poi ci sono i proclami, naturalmente, i proclami davanti alle telecamere per la famiglia Mastella, Clemente e la moglie, le mani pulite, le mani pulite. Ho sempre detto che mi sarei difeso nei processi e lo farò, perché ho la fronte alta, l'orgoglio io e la mia famiglia di essere persone per bene. Io e la mia famiglia, anche a lei che ascolta là, siamo persone per bene e abbiamo le mani pulite, pulitissime, mai una lira in tasca. Ritrovare dentro al cuore il senso vero delle cose. Altro spunto per oggi, prima dei vostri interventi, la questione Facebook, una questione che segnala certamente quello che già sappiamo da tempo, cioè c'è in Italia un gruppo di persone, secondo me anche piuttosto ampio, che sogna la morte di Berlusconi. È un pericolo vero? Anche i gruppi che nascono su Facebook e che il ministro dell'Interno vuole chiudere rappresentano un pericolo sostanziale, un pericolo concreto, oppure sono semplicemente un'espressione della società? C'è anche questo, ci sono anche delle cose terrificanti all'interno della società italiana. Cosa hanno in comune in fondo i personaggi insieme a Berlusconi, i personaggi che sentirete adesso? Alla conquista del paradiso, va bene. Scusa, puoi sentire qua? Senti, ti piace? È profumo di santità. Raffaella? Sì, Gigio? Vuoi fare un giochino con me? No, veramente devi cantare, non possiamo giocare. Ma dai, un giochinoino. A me non mi piace prostituzione intellettuale, ma io non sono pirla. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Generalità. Fabrizio Corona, nato a Catania, 29.3.74. Chi è il PM Woodcock? Uno che, come me, ama apparire. Non poteva mancare Giampiero Mughini. No, no. Mi chiedo se alla terza elementare gli abbiano insegnato l'educazione. Razza di villanzoni. È ovvio che c'è una differenza tra le minacce a Berlusconi e le minacce a Topo Gigio, a Mourinho, a Vasco Rossi, a Fabrizio Corone, a Mughini. Però tutti questi personaggi hanno in comune dei siti su Facebook e altrove in cui c'è qualcuno che li vuole ammazzare. I want to kill Topo Gigio, Mourinho, Vasco Rossi, Corona, Mughini e anche Berlusconi. È un pericolo reale oppure l'espressione di quello che c'è nella società, punto, non c'è bisogno di chiudere questi siti, oppure sì? Beh, prima di passare agli ascoltatori vi voglio leggere una dichiarazione spettacolare fatta al Corriere della Sera questa mattina da un ex assessore molto potente, molto conosciuto in Campania dell'Udeur, si chiama Antonio Fantini, che ha 74 anni, è stato segretario regionale dell'Udeur. Sentite, per me può pure chiamare raccomandazioni quelle che ho fatto. In quella classifica io sto molto in basso, mi vengono contestati 5 o 6 nomi, oggettivamente un dato fisiologico. So bene che si tratta di un malcostume, ma è vecchio come il cucco, lo facevano già gli antichi greci e anche dopo in epoca romana. E chi non si ricorda gli anni 60 e 70, le lettere degli onorevoli su carta intestata della Camera? Così fan tutti, caro mio, rivolgendosi al giornalista. A tal proposito, rivedetevi Il medico della mutua con Alberto Sordi. Bel film, tra l'altro. Passiamo a Imperia. Franco, buonasera. Buonasera Cruciani. Un'opinione veloce, nel senso, non ci trovo niente di nuovo in tutto questo, nel senso che ormai sono anni che si parlano di queste cose, di raccomandazioni, eccetera. Nello specifico, però, si dice che a pensar male, no? Ecco, nello specifico nel caso Mastella, il mio parere, il mio punto di vista è che sia l'ennesima manovra occulta della sinistra, al di là del fatto che non sto giustificando in nessun modo e non lo giustificherò mai il signor Mastella, di cui mi guardo bene di chiamarlo onorevole. Dunque, questo, Franco, vada al sodo. No, premesso questo, guarda caso hanno cominciato a massacrarlo quando è fatto cadere il governo Prodi. Ma veramente hanno fatto cadere, scusi, in realtà secondo lui lo avevano massacrato anche prima. Sì, ma velatamente probabilmente. Ma come velatamente? In maniera ha fatto cadere il governo Prodi perché era secondo lui sotto attacco giudiziario? Non lo so, da vedere. E no, poi comunque questa cosa io non sto, non so se è da vedere o no, è quello che dice lui. Sì, stando a quello che dice lui. Sì. Ok, poi seconda cosa, lui, non ci dimentichiamo che è un europarlamentare del Popolo della Libertà, quindi il fatto di poterlo mettere sulla croce in questo momento rappresenta anche una maniera, come dire, occulta per poter attaccare ancora una volta il signor Berlusconi. Ma non lo so, parte. Franco, francamente non credo, e l'inchiesta è del 2007. Grazie, Antonio da Roma, Antonio. Buonasera. Prego. Velocemente, la vicenda Mastella mi ha fatto venire in mente che se ogni popolo ha il governo che si merita, ogni parlamento ha la magistratura e le attività giudiziarie che si merita. Che vuol dire? Che, voglio dire che tutte le leggi, leggine, eccetera, le ha fatte il Parlamento. Il fatto che il Parlamento precedente, non è quello attuale, abbia fatto delle leggi capestro che poi questo capestro gli hanno filato nel collo e gli hanno fatti applicando loro le leggi. Antonio, non ho capito niente, mi scusi, le leggi capestro fatte dal Parlamento precedente, che significa? Si spieghi, sia chiaro, non si capisce. Il tempo è in questo caso è tiranno. Ma non c'è nessun tempo, se lei mi dice le leggi capestro, a che cosa si riferisce? A quali leggi? Di quale Parlamento? Il Parlamento ha fatto le leggi moraliste che riguardavano per esempio il finanziamento illecito dei partiti, a fronte di spese miliardarie e miliardi dell'epoca, non in euro ma in lire, per le campagne elettorali, hanno fatto una legge che dopo i 5 milioni scattava il processo penale per il finanziamento illecito. Allora? Poi la magistratura gli ha applicato la legge che loro avevano fatto e li ha incriminati tutti quanti, anche se poi è vero che 5-6 milioni di finanziamenti... Mi scusi Antonio, vorrei capire quello che lei ha da dire sulla vicenda Mastella. Lasciamo perdere la ricostruzione dei finanziamenti ai partiti in Italia. Che cosa ha da dire sulla vicenda Mastella? Mi dica una cosa chiara, che così la capiamo tutti, e passiamo a un altro ascoltatore. La sentenza della Cassazione ha stabilito che una raccomandazione equivale a una concussione. Sì. Perché il solo fatto che ci permettono di dire questo, la concussione viene punita da 4 a 12 anni per una raccomandazione. Sì. È sbagliato, secondo lei? Eh? È sbagliato, secondo lei? Sì, secondo me è sbagliatissimo, perché mettere la raccomandazione sul piano della concussione mi sembra una cosa semplicemente allucinante. A me personalmente, che però dice non sono un giurista, visto che... Ho capito. Però la raccomandazione... Punire una raccomandazione con 12 anni di carcere. Adesso io non so se la raccomandazione viene punita come con 10 anni di carcere. Si configura, non credo che non esiste il reato di raccomandazione, esistono naturalmente dei reati. No, esiste. La Cassazione ha fatto una sentenza di questo genere. Spero che non divenga norma, perché poi sa, da noi legge anche la Cassazione, non è che legifera. No, Antonio, le indagini sui favoritismi sono legate ad alcuni reati, non esiste il reato di raccomandazione. Antonio, la ringrazio. Giampiero da Firenze, buonasera. Sintesi. Per dire che non mi meraviglia il caso Mastella, perché secondo me rispecchia nient'altro la cattiva abitudine italica che abbiamo sempre avuto, che sempre avremo, di fare le segnalazioni o raccomandazioni, come le vogliamo chiamare, secondo me non c'è nessuna differenza, e che poi se vogliamo scadere nel gradino più basso, che si chiamano poi tangentopoli. Sì, ma lasciamo perdere le tangentopoli, le raccomandazioni. Il punto è che siccome questi enti, peraltro l'ARPAC in Campania pare che sia uno dei simboli dell'inefficienza, degli sprechi, eccetera eccetera, siccome questi enti sono creati dalla regione e dunque dalla politica, diventano dei pozzi senza fondo, naturalmente non ovunque, in Campania sicuramente, diventano feudo di alcuni partiti. In questo caso sono diventati feudo clientelare, ma lo dico senza un'accezione negativa, feudo clientelare di un partito. Il problema è il sistema, non il fatto che poi i politici ci mettono bocca. Se la creazione di questi enti, eccetera, è affidata alla politica, esclusivamente alla politica, e poi inevitabilmente si arriva a questo punto, o no? Sicuramente, dove c'è politica, guarda caso, c'è sempre un collegamento che poi va a finire nella cattiva gestione. Ma non sempre è così, però certamente nel sud degli esempi, in particolare al sud, gli esempi sono tanti, soprattutto per quello che riguarda poi le assunzioni che sono fonte di voti. Mario da Roma, buonasera. Pronto? Buonasera, dica. Pronto? Mario, non la sento più. Diego da Milano, buonasera. Sì, buonasera dottore, complimenti e grazie per la compagnia. Grazie, lei ha 30 secondi, poi dobbiamo dare la linea al giornale radio. Dica Vado velocemente. Subito. L'unica cosa che dico, sono rimasto un po' sorpreso simpaticamente dal fatto che Mastella abbia avuto comunque il coraggio di anche di fare la classifica, e lui ha fatto meno raccomandazioni dell'Italia dei Valori. Non vorrei soltanto che fra 10 giorni a Porta ci fosse la classifica di chi ha raccomandato che cosa e di chi ne ha fatto. Beh, ha fatto un conto piuttosto strano, cioè nel senso non ha calcolato gli ex, lui ha fatto riferimento a quelli che attualmente sono nell'Udeur, perché io ho visto oggi le persone sono quasi tutti ex o ancora nell'Udeur, beh, insomma, ma sono classifiche che francamente contano poco. Voleva esprimere un concetto molto chiaro Mastella, così fan tutti. Le segnalazioni le fanno tutti i partiti, noi le facciamo, le fanno tutti i partiti di governo e non solo di governo in Campania. TG3. Berlusconi, taglierò l'IRAP, industriali d'accordo, Epifani, pensare prima ai lavoratori, Draghi sulla crisi, nuovi problemi all'orizzonte. L'inchiesta su appalti e assunzioni facili in Campania, Mastella si difende, ho solo segnalato casi bisognosi, la moglie non mi dimetto. Botta e risposta sul Veneto, per posti questione chiusa, la Russa ne parliamo a novembre, Franceschini se vinco sarà tua di il mio vice. Napolitano, le riforme sono inderogabili ma non possono essere punitive, non devono diventare materia di scontro politico. Un mese fa la casa nuova, ora dovrà lasciarla, la vecchia abitazione danneggiata dal terremoto improvvisamente dichiarata agibile. Studenti in piazza a Parigi contro il nepotismo di Sarkozy, non siamo una repubblica delle banane, il presidente è in calo nel gradimento. Rockstar protestano per l'uso dei loro brani a Guantanamo, venivano utilizzati ad alto volume per costringere i prigionieri a stare svegli. L'olocausto mai esistito, un docente della Sapienza lo teorizza su Facebook, proteste di professori e studenti, inchiesta del rettore. Bisogna stare attenti agli annunci come al solito. Nel 2005, come mi ricorda una rassegna stampa che ho qui davanti, il premier, il presidente del Consiglio, all'epoca Silvio Berlusconi, 4 anni fa, cosa disse? Ridurremo l'IRAP progressivamente. L'IRAP è l'odiata legge regionale, in fin dei conti ormai è una legge che finanzia soprattutto gli enti locali sulle imprese. Ridurremo l'IRAP progressivamente. Pronti a tagliare l'IRAP. Marzo 2005 direttamente alla Confcommercio. Sappiamo com'è finita, per cui molto molto attenti agli annunci. Andiamo a sentire i titoli di Sky TG24. Ridurre l'IRAP fino ad abolirla, Confindustria e con Berlusconi freddi i sindacati. Crisi, Draghi dice basta le misure eccezionali e avverte nuovi problemi in vista. Scandalo assunzioni, Mastella si difende, siamo per bene, mai presa una lira. Le minacce al premier su Facebook, Maroni annuncia la pagina sarà oscurata. Nuovo impulso del Colle alle riforme, ma Napolitano dice no allo scontro cieco. Maltempo in tutta Italia, un fulmine incendia il campanile del Duomo di Parma. Salari, pensioni e sicurezza, domani Cobas in piazza per lo sciopero generale. Pirati in azione tra Kenya e gli Emirati, 2 navi italiane scampano all'attacco. Riflettori accesi sull'Europa League, questa sera in campo Lazio, Genoa e Roma. Al Festival di Roma la ricetta di Meryl Streep, cibo e sesso per essere felici. Voi dovete scegliere il lettore del telegiornale tra quei 12 che sono rimasti in gara e lo dovete scegliere con la massima imparzialità, senza tener conto di pressioni esterne, di raccomandazioni, tanto è non concesso che siano arrivate anche a voi delle raccomandazioni. Oh, ma no! Oh, no, no, no! Scusi, eccellenza, per l'amor di Dio! Senz'altro, d'accordo, sarà giudicato con la massima benevolenza. È una raccomandazione autorevole. Professore, mi dica, chi è più raccomandato? Ah, nessuno. Partono tutti alla pari. Sono tutti raccomandatissimi. Ah, no! Meno uno, un certo Guglielmo Bertone. Sordi il dentone, ricordate, sono tutti raccomandati. E qui sembra la stessa cosa, sono tutti raccomandati quelli che devono entrare all'ARPAC, dunque c'è una lotta di raccomandazioni dove prevale naturalmente il partito che è designato per essere quello che controlla principalmente, non solo che controlla l'ARPAC, che è l'azienda regionale per l'ambiente. Luigi Nocera, che ha fatto 100, lui dice di no, cioè 100 raccomandazioni, ed è un ex, credo, dell'Udeur, segnala che cosa? No, segnala, dice cosa? Si tratta di mere segnalazioni. C'è differenza. Le prime, infatti, contengono una eccessiva forma di pressione, cioè le raccomandazioni. Questa è la distinzione. Dunque, la raccomandazione è un'eccessiva forma di pressione. La segnalazione è una cosa diversa, un po' più leggera, sembra dire. Non sono ordini, ma quasi, cioè le raccomandazioni. Ci tengo molto a questa distinzione. Rivendico che laddove c'è una necessità, un bisogno, segnali, rivendico la mia storia, rivendico il fatto che sono nato qua nel Mezzogiorno, dove il bisogno è più marcato, dove ogni parlamentare o la maggior parte di noi ha problemi rispetto all'impatto con gente che non ce la fa e che ha sofferenza. Quando andremo davanti al tribunale farò vedere le persone eventualmente che ho segnalato e vedrete se ho segnato ricchi o ho segnalato poveri. Ho segnato povera gente che aveva difficoltà. Mi spiace per altra povera gente che aveva analoghe difficoltà e non si riesce, ma se uno ti viene evidentemente da te hai il dovere di farlo. E il mio motto che riguarda me, riguarda mia moglie, è stato sempre quello di chiedere a tutti, laddove si chiedeva, che ogni cosa dovesse avvenire secondo criteri e regole di comportamenti che fossero in linea con i dati di natura legale. Presto vedrai, verrà. Evidentemente tra questi ex Udeur la pensano in modo diverso. Se infatti Luigi Nocera, che è stato anche candidato con l'UDC alle ultime elezioni, dice che bisogna fare questa distinzione semantica tra raccomandazioni e segnalazioni, un altro che si chiama Antonio Fantini, anche lui segretario regionale dell'Udeur, ex Udeur, dice invece no, ma chiamatele anche raccomandazioni. Io ho segnalato 5-6 nomi, un dato fisiologico, so bene che si tratta di un malcostume, ma è un vecchio come il cucco, lo facevano gli antichi greci anche in epoca romana. E, insomma, se li ricorda, rivolgendosi al giornalista, gli anni 60 e 70, lettere degli onorevoli su carta intestata della Camera, così fanno tutti. Così fanno tutti. La luce splenderà, il futuro che tu hai verrà. Verrà, presto vedrai, verrà, Udeur, verrà. Dopo l'Udeur, altro spunto per oggi. Io divento pazzo con questa storia delle 100.000 firme su Repubblica. 100.000 firme su Repubblica. Sapete che poi si esagera e si mette una firma su tutto. In Italia oggi basta fare un appello, si arriva facilmente a 20, 30, 40.000, 100.000. Poi soprattutto se è un appello contro Berlusconi. E in questo caso è un appello contro Berlusconi che tratterebbe male le donne, offende le donne. Ricordate, la raccolta di firme di Repubblica parte dalla frase di Berlusconi a Rosi Bindi. Ma divento pazzo perché se uno ascolta le persone che hanno promosso questa raccolta delle firme con il manifesto contro Berlusconi, che offende le donne, il corpo delle donne, le veline, l'immagine delle donne che le televisioni di Berlusconi, lo stesso Berlusconi, hanno diffuso per anni, inquinando tutta l'Italia, se uno ascolta queste persone pensa di cadere in un mondo dei sogni, in un mondo irreale, in un mondo inesistente. E si fa una domanda: ma è possibile che un appello di questo tipo, fatto da persone che dicono certe cose, per carità non voglio insultare, raccolga 100.000 firme solo perché è un appello contro Berlusconi? Da chi iniziamo? Michela Marzano, una delle promotrici, è stata nostra ospite qualche giorno fa, ha detto delle cose che sono secondo me inenarrabili, sentite. Basta guardare quello che accade quando ci sono dei talk show, quando c'è una presa di parola da parte della donna, sistematicamente è azzittita. La donna è messa in una posizione in cui la si prende in giro, in cui appena dice qualcosa che non ci si aspetta che venga detto viene azzittita, per cui c'è proprio una difficoltà a potersi esprimere come donna. Non so se avete sentito e avete capito, soprattutto perché io non l'ho capito, vivrò in un altro mondo. Nadia Urbinati è poi la più bella. Sentite oggi cosa ha detto: ci vorrebbero dei presidi in ogni città di donne, 3-4 donne, a fare cosa, Urbinati? Se è vero che noi non abbiamo la televisione dalla nostra, noi vuol dire le donne in questo caso, occorre trovare il modo di sopperire all'oscuramento della percezione visiva, televisiva, attraverso la sviluppo di altre forme di fonti di percezione, per cui se ci fossero presidi nelle città con luoghi, ogni città, grande città, un luogo dove ci sia permanentemente tutti i giorni qualcuno, una persona o due, una donna o due, con messaggi visivi perché occorre un messaggio visivo che la città sia viva, che non sia semplicemente omogenea. Questo è un fatto. L'altro sono le manifestazioni, piccole, grandi, iniziative, tutto quello che si può fare. Ma insomma, non so se vi rendete conto, presidi nelle città, due, tre donne, immagini, percezione visiva, televisiva. Queste sono le persone che hanno scritto l'appello su Repubblica, il premier offende le donne, vi rendete conto o no? C'è anche Barbara Spinelli, che è una prestigiosa editorialista della Stampa, la quale si esalta perché si è raggiunta quota 100.000 e dice, segnale che... in realtà poi contraddicendosi, perché 100.000 firme, dice, la sentirete fra poco, è il segnale che in realtà c'è un paese che non si fa soggiogare. Allora questo paese è soggiogato o non è soggiogato da Berlusconi? Perché insomma, chiaritevi. E poi chiude dicendo, beh, sentiamo. Fantastico, la trovo una straordinaria riuscita e una conferma che c'è un'Italia reattiva a quello che succede, niente affatto manipolata, non manipolabile, e che si è resa conto che siamo di fronte a una situazione assolutamente eccezionale. Presto vedrai, verrà. Alcune cattiverie pescate in rete da un sito molto carino che si chiama Spinoza, dove ci sono delle freddure ogni tanto formidabili, dei pezzi umoristici geniali. Sentite, sono molto cattive nei confronti di questa vicenda di Mastella. Carabinieri a casa Mastella, al loro arrivo il cane ha scodinzolato. Molto cattive. Secondo i PM la moglie di Mastella deve lasciare la Campania, ma non si è capito a chi. Meno bella questa. Un'altra ancora. Sandra Lonardo, mi crolla il mondo addosso. Speriamo prenda bene la mira. Questa è molto molto cattiva. Ancora, Mastella si difende, non ho mai preso una lira, preferisce l'ARPAC. Questa non male. Ascoltatori all'800 24 0024, Massimo da Milano. Buonasera, dottor Cruciani, complimenti a tutti voi. Sono cose umoristiche queste che abbiamo ascoltato, per carità. A proposito di internet, tra l'altro, se ne parla molto per i siti che il ministro all'interno Maroni, quelli che vogliono ammazzare Berlusconi, vorrebbe sopprimere, vorrebbe cancellare. Massimo, prego. Buonasera, complimenti a tutti. Grazie, voi. Grazie, dica. Volevo intervenire a proposito del discorso Mastella, cioè io non voglio fare l'apologia della segnalazione o della raccomandazione, chiamiamola pure. Però no, la faccia. Secondo me il discrimine è il motivo, cioè se uno chiede qualcosa in cambio oppure no. Cioè io sono un dirigente di un'azienda a Milano, ma io, se c'è una posizione vacante all'interno della mia azienda o se un cliente mi chiama e mi chiede, ma tu conosci qualcuno che sappia fare questo lavoro piuttosto quell'altro, ma io sono lieto di segnalare delle persone che conosco, perché d'altra parte mi metto nei panni della mia azienda. Se io devo assumere qualcuno nella mia azienda, io preferisco assumere una persona che conosco, di cui conosco le virtù, di cui conosco una persona a posto, che non ha particolari problemi, eccetera, eccetera. Credo che sia una cosa abbastanza normale. No, no, ma è una cosa non solo comune, ma largamente diffusa. Certo che una cosa è un'azienda privata come la sua, naturalmente. Una cosa è un ente, diciamo, parapubblico, legato alla regione, un ente collegato ad una regione, a un comune, a una provincia, è una cosa un po' diversa. Alcune procedure anche per l'assunzione di persone a tempo determinato dovrebbero essere certamente molto più trasparenti di un foglietto con i nomi dei politici accanto, su questo siamo d'accordo tutti, no? Certo, se io segnalo una persona non desidero nulla in cambio, poi la persona segnalata viene messa a confronto con chi si candida dal mercato o si autocandida, eccetera, in un processo di selezione trasparente e normale com'è. A me recentemente, con la crisi che c'è stata, persone mi si sono rivolte, o amici o conoscenti che hanno perso il lavoro, hanno detto, ma tu conosci qualcosa, gente che aveva bisogno effettivamente di recuperare possibilmente quanto prima una posizione lavorativa. Io mi sono sentito obbligato di fare telefonate. Ma sì, Massimo, ma è chiarissimo, adesso il suo telefono ogni tanto fa un piccolo suono perché evidentemente o la stanno chiamando oppure è scarico, non lo so. Marco da Salerno, abbiamo capito benissimo. Prego, Marco. Sì, salve, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Io ho due osservazioni. La prima, su Mastella, chiaramente. La prima è di natura, non capisco la distinzione su questa natura legale di queste segnalazioni. Il problema è di natura morale. è ben diversa. Cioè, non, io credo che in questo paese ci si aggrappi a ciò che è legale e a ciò che non è legale. Ci sono tante cose che possono essere legali, ma moralmente non sono accettabili. Sì, però siccome siamo di fronte ad un'inchiesta, Marco, dove vengono evidentemente accusati coniugi Mastella e non solo di raccomandazioni, i reati non sono questi, sono altri naturalmente, ma comunque di avere favorito l'assunzione di persone, dunque di avere provocato un danno ad altre persone eccetera, evidentemente la questione non è solo, diciamo, di natura filosofica: è giusto o non è giusto segnalare qualcuno, cos'è oggi la raccomandazione, la segnalazione, funziona così, cosa non funziona, il Sud eccetera eccetera. La questione è anche prettamente giudiziaria, giuridica, si andrà in tribunale probabilmente. Sì, tutto giusto quello che dice, però insomma sinceramente io mi aggrappo più a questo tipo di ragionamento, pur comprendendo che trattandosi di un'inchiesta chiaramente si parla anche del profilo legale. Invece la seconda osservazione è riferita al fatto che questo tipo di segnalazioni, raccomandazioni, come ha detto anche lei giustamente prima, e ci tengo a sottolinearlo, è un discorso, io ho fatto politica per oltre 15 anni, sì, e non la faccio più proprio perché non voglio dormire tranquillo e fare la mia vita. Io pensavo di dover dare solo un contributo alla mia comunità, ma evidentemente non tutti la pensano allo stesso modo. Il problema è che questo tipo di segnalazioni e raccomandazioni servono a garantirsi un bacino di voti. Vabbè, su questo non c'è dubbio, altrimenti servono non è... ad accrescere il proprio potere. È tutto lì. Sì, però anche qui, Marco, nessuno scandalo, però. Intendiamoci. Nessuno scandalo. Infatti, uno può scegliere la politica di fare fatta parte di un sistema o di non farne parte. No, sì, ma non è solo questione di sistema. Lei pensa che in altri paesi non ci siano forme di creazione del consenso? Che in cui ci sia la promessa di qualcosa? Non è che solo in Italia c'è la promessa di qualcosa per ottenere consenso, c'è anche da altre parti. Diciamo che poi in Italia, forse in alcune regioni in particolare, assume una forma molto pratica. Perché? Perché la politica controlla tante cose. Perché sono così importanti le elezioni comunali, le elezioni provinciali, le elezioni regionali in Italia? Perché la politica in Italia fa mangiare un sacco di persone, intorno alla politica ruotano un sacco di famiglie, questo è il punto. E nel meridione, in Campania, io vivo in provincia di Salerno, dove chiaramente il bisogno è forse anche maggiore, si sfrutta questo tipo di cose. Il problema è che è un gatto che si muove la coda, però, perché chi dovrebbe attuare le soluzioni affinché quel bisogno diventi inferiore a quello attuale sono gli stessi che poi dovrebbero che poi fanno le raccomandazioni, per cui sono sempre gli stessi che muovono le medesime pedine. Va bene, insomma, diventa, capito, difficile. Allora, intanto, a proposito di raccomandazioni, è arrivato un'ultima ora che leggo qui da Sky, che ho di fronte a me, Sky TG24. Jean Sarkozy, dunque l'argomento in qualche modo si collega a quello di cui stiamo parlando. Jean Sarkozy, che è il figlio, il primogenito, 23enne, praticamente sposato con una super miliardaria, sposato non praticamente, super sposato con una, perché credevo che il matrimonio fosse tra qualche mese, in realtà è già sposato con una super miliardaria, erede dell'impero d'Arti. Jean Sarkozy sta aspettando anche un figlio, 23 anni, molto precoce, eletto con tantissimi voti al consiglio provinciale dell'Haut-Seine. In Francia Jean Sarkozy è candidato da Sarkozy, anche se non ufficialmente, a presidente dell'EPAD, che è un ente che sovrintende a una vastissima regione dove ci sono grandi progetti infrastrutturali, di sviluppo, eccetera. Ha rinunciato a questo incarico. È una cosa che ha fatto discutere moltissimo in Francia, appunto perché sembrava la nomina del re nei confronti del figlio, piazzato a 23 anni in un posto molto molto importante. Ha rinunciato alla fine Jean Sarkozy, credo anche per le polemiche che ci sono state. Dove andiamo? Luca da Prato, buonasera. Luca, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera Luca, dica. Buonasera a tutti. No, io volevo fare una riflessione sulla sfrontatezza e il disprezzo che Mastella ha avuto del fare le dichiarazioni, che voleva andare praticamente a attenuare la sua posizione, ma secondo me non ha fatto altro che peggiorarla. Disprezzo nei confronti di tutte le persone che fanno onestamente gli esami di ammissione, le selezioni, i concorsi pubblici e quant'altro. Lui si è messo a disquisire: no, ma io faccio segnalazione, non faccio raccomandazione. Ecco, io mi domando, ma una segnalazione fatta da un carico politico da 90 quale è Mastella secondo noi, secondo tutti, che peso ha? Ha un peso di una raccomandazione enorme, perché chi se la vede recapitare una segnalazione fatta da un politico, da un onorevole, da un ex ministro, che reazione può avere? Ma guardi, nessuna reazione, perché la raccomandazione, la segnalazione, dice Mastella, è diretta alle stesse persone che l'Udeuro ha messo in certi posti, per cui non credo che quelle persone là subiscano eccessive pressioni, glielo posso assicurare, in questo caso. A segnalare i poveri, ecco. Allora, da ultimo... Sì, così ha detto Mastella, io ho segnalato povera gente. Se si va di questo passo, da ultimo bisognerà dare anche un premio a chi fa la segnalazione, raccomandazione, come si chiama. Un'ultimissima prego, dica. Riflessione. Un magistrato ascolta queste dichiarazioni, che reazione può avere? Che reazione dovrei avere sentendo queste dichiarazioni che sono un'offesa? Ma non mi pare, Luca, guardi, abbia pazienza Luca, non mi pare che Mastella in questa conferenza stampa, che alcune cose sono criticabilissime, naturalmente se ne discute, ma non mi pare sia stato particolarmente offensivo, anzi ha detto non mi scaglierò contro i giudici, non mi pare che ci sia un'offesa nei confronti dei magistrati, uno si difende naturalmente, poi si può criticare la conferenza stampa, le cose, ma insomma mi sembra che non ci sia stata nessuna offesa nei confronti di nessun giudice. Claudio Velardi, buonasera. Buonasera. Claudio Velardi è stato assessore in Campania fino al giugno del 2009, dunque fino a poco tempo fa. Senta, mi dica subito in sintesi cosa pensa di questa inchiesta, perché oggi ne abbiamo lette sui giornali di tutti i colori, ne abbiamo sentite di tutti i colori, le raccomandazioni. Visto che lei ha detto che sono stato assessore in Campania fino a giugno, io sono andato via esattamente perché vedevo che non c'erano più margini per fare delle politiche che prescindessero dalle clientele dei partiti. L'ho fatto fin quando ho potuto, per un anno e passa, poi siccome si stava avvicinando la scadenza elettorale ho avvertito che non era più possibile. Questo dà un segno un poco del clima che c'è in Campania, ma io temo non solo in Campania e non solo nel Mezzogiorno. Senta, quando lei dice me ne sono andato perché sentivo ormai che è difficile fare politica al di fuori delle clientele dei partiti, siccome si parla di una cosa ben precisa, immagino però che non ci sia solo quella, poi si può discutere perché i giudici fanno inchieste sulle segnalazioni all'ARPA che non io in altri. Questo lo trovo molto discutibile, perché il tema di cui parliamo è un grande tema politico in Italia. Non è un tema da affidare ai giudici, secondo me. Cioè quale? Quello di come? Il sistema dovrebbe funzionare diversamente, la politica non dovrebbe avere nessuna invasività, tutto dovrebbe essere regolato dal mercato e non dallo scambio politico. Cioè non dovrebbe esistere, per capirci, non dovrebbe esistere un'agenzia regionale controllata dalla politica sull'ambiente, questo è il punto secondo lei? Esattamente. E con tutto quello che ne consegue, naturalmente. Certo, non che non debba esistere un'agenzia regionale per l'ambiente, ma che non debba essere controllato dalla politica, mi pare evidente. Che lì ci debbano andare dei professionisti del tutto autonomi dalla politica, mi sembra fino anche una banalità dirlo. Sì. Invece il problema è che la politica, ripeto, in Campania e non solo, tende ad invadere tutto quanto il campo da gioco. Perché? Perché attraverso la nomina di persone appartenenti ai partiti si finanzia il consenso politico. Si investe sul consenso politico. Senta Velardi, Mastella dice così fanno tutti, no? Cioè io ma ha ragione, il povero Mastella ha ragione. Poi paga sempre lui, perché lui è il vaso di coccio, diciamo, quello è il più debole della compagnia. Cioè le segnalazioni le fanno tutti, le segnalazioni per far assumere temporaneamente o a tempo indeterminato nei vari enti controllati dalla regione, in questo caso le fanno tutti i partiti. Ma no? Io le ripeto, e non avviene solo in Campania. No, certo. Avvenga solo in Campania o nel Mezzogiorno, avviene in tutta quanta l'Italia. Vogliamo parlare, ma che le devo dire della faccio il primo esempio che mi capita a tiro. Sì. Esattamente la stessa dinamica, non cambia proprio nulla. Quindi c'è poco da scandalizzarsi, c'è semmai da riflettere appunto su come la politica, su come la società italiana si debba liberare dell'invasività della politica. Quello è il problema. Detto questo, se mi consente la conclusione del ragionamento, metto insieme diverse. Perché la società si liberi dalla politica? Tutto bisogna fare tranne che parlare di posti fissi. In una società regolata dal mercato esiste la flessibilità, esiste l'innovazione, esiste il dinamismo, non esistono i posti fissi. I posti fissi sono i posti fissi, cose molto diverse, i posti fissi sono, certo, sono molto simili. Assolutamente sì, perché i posti fissi sono alla base poi della ricerca della clientela, no, bravissimo, della, bravissimo, esattamente. Se c'è il posto fisso, uno il posto fisso lo cerca. Come vedi, tutto si tiene, si vengono anche Mastella e Tremonti, diciamo. Tremonti e l'ARPAC, come è stata gestita l'ARPAC non lo so, però insomma, dal punto di vista il fil rouge c'è. Senta, ma l'ARPAC era davvero un disastro, così come ci raccontava anche il nostro Mariano Maggiori sul Sole 24 è gestita, cioè male, certo di sì, questo lo diceva spesso anche il povero assessore Canapini, il mio collega Canapini, un tecnico valente che lavora all'ambiente e che ha trovato una situazione molto difficile, che lui ha cercato di contrastare in tutti quanti i modi, penso stia cercando ancora di contrastarla, diciamo. Se ne parlava ogni tanto anche nelle riunioni di giugno. Senta, quando uno come Antonio Fantini, che lei conosce evidentemente, che è un... La verità no, non lo conosco personalmente, comunque sì, so di vabbè, è stato segretario generale dell'UDEUR, sì, vabbè, sì. Effettivamente... No, ma io ho cercato anche di frequentare poco, diciamo, i partiti in quel periodo che passo. Quando dice, vabbè, chiamiamole pure raccomandazioni, è un dato fisiologico, ma il costume, ma è vecchio come il cucco, lo facevano già gli antichi greci anche dopo in epoca romana, cioè... naturalmente queste cose passano come una, no, l'elogio della segnalazione. Ma queste per un verso sono delle banalità, perché sono anche delle cose ovvie, per un altro però giustificano dei comportamenti che invece noi tutti dovremmo impegnarci a superare. Perché per dare lavoro alle persone che meritano di averlo e non a quello che si aggregano alle clientele. Certo, non serve a niente dire che funzionava così, che funziona così. No, bisogna proporre il modo per uscirne da queste cose, evidentemente. Un'ultimissima cosa, ma in tutto questo, al di là degli appalti, delle cose, questo sono altri filoni, altri discorsi, ma c'è reato secondo lei? Questo sarà difficile, è un po' complicato. Io penso che è molto difficile stabilire i confini del reato, ma penso che sia molto sbagliato che sia la magistratura ad intervenire in queste cose. Deve essere la politica, proprio perché i confini dei reati sono assolutamente labili, e anche perché la magistratura avrebbe tantissime altre cose da fare, diciamo, in questo, cioè, paese. Se si trova un file con 665 nomi, secondo lei che reato c'è? Non so, abuso d'ufficio, io non so. Io non sono in grado. No, ma mi sembra certamente di sì, ma è difficile da definire, appunto. Per questo poi io temo che noi avremo, oltre al danno, anche la beffa, perché tra un po' si scoprirà che non potrà andare avanti nessuna indagine e così andrà tutto a carte 48 e si ricomincerà esattamente punto da capo, come è successo in tante altre occasioni del genere. Bene, grazie, buona serata. Grazie, grazie a Claudio Velardi. Andiamo a... dove andiamo? Andiamo a Foggia. Luigi, buonasera. Luigi, buonasera. Buonasera, signor Cruciani, complimenti per la trasmissione. Dica. Volevo chiederle, cioè veramente io ero allibito proprio dal livello della nostra politica, cioè io non penso che un politico possa fare delle affermazioni tipo ho aiutato gente povera, penso che tutti i politici vogliano aiutare gente povera, ma questo presuppone che altra bisogna gente vedere povera che significa... venga scavallata. No, poi bisogna vedere che significa povero, e poi appunto dice lei ce ne sono tanti di poveri, perché alcuni poveri possono venire prima di altri. Premetto poveri che io sono una persona che non naviga nell'oro, quindi non penso che sia un politico possa parlare in questa maniera qui, perché se comunque si segnala o si raccomanda, come dicono, una persona perché è povera, presuppone che altra gente sia stata messa da parte, che magari neanche navigava nell'oro, quindi. E poi volevo chiederle, Mastella è stato quello che ha fatto cadere il governo Prodi, no? Sì, certo. Sente? Sì, la sento. Adesso lui è europarlamentare. Sì, del per PDL. Quale partito? PDL. Cioè PDL. Sono ancora allibito dalla nostra politica, guardi, proprio... Ma non è una novità questa, è stato letto qualche mese fa, Luigi? Insomma. Sì, io lo so che questa non è una novità. A me quando me l'hanno detto qualche mese fa io ero rimasto allibito, ugualmente. Ma di cosa si stupisce? Scusi, Luigi. Già doveva essere candidato alle politiche. Berlusconi poi ha resistito perché c'erano pressioni all'interno della PD. Complimenti anche al nostro premio, poi, che ha candidato una persona che ha fatto cadere il governo Prodi. Cioè, complimenti, una bella mossa politica. Beh, no, veramente, per quello che riguarda Berlusconi, naturalmente il fatto che abbia fatto cadere il governo Prodi non penso che la veda in maniera negativa, Berlusconi, abbia pazienza. Per questo le sto dicendo questo. Sì. Cioè, anche questa è un'ovvietà, però so che Berlusconi possa avere un occhio di riguardo. La politica italiana è questa. Sì, ecco, questa è un'altra considerazione. Grazie Luigi. Bruno, Bruno da Roma, buonasera. Poi abbiamo Giovanni da Bergamo, Giovanni provincia di Torino, Giovanni da Parma, tre Giovanni, bene. Bruno. Buonasera signor Cruciani, senta, io mi discosto un po' dal tema odierno, non parlo delle raccomandazioni, ma volevo fare riferimento a quello che lei aveva detto del signor Berlusconi, che già nel 2005 aveva promesso la cancellazione dell'IRAP. Sì. Ora, io, a parte il fatto che qualcuno mi deve spiegare come si possono sostituire quei 40 miliardi di euro... No, 27 miliardi, 27 miliardi. Vabbè, 27 miliardi in un paese che non sono pochi, non sono pochi. Sì, ma abbiamo il problema del debito pubblico, quindi qualche economista dovrebbe pure dargli un freno. Infatti oggi alcune agenzie di rating hanno già fatto notare questa cosa. Sì, ma vede, signor Cruciani, le agenzie di rating non sono viste e seguite dal popolo bue, come io lo chiamo. Cioè, nel senso che questo signore, giorni fa, si è permesso di dire che a gennaio ci sarebbe stata la prima pietra del ponte di Messina. E poi adesso sui giornali, che la gente non legge, logicamente, si viene a scoprire che non c'è nessun progetto attuativo, per cui non ci sarà alcuna prima pietra, ci sarà solo Bruno, una prima pietra. Per sua informazione, lei può essere naturalmente contro il ponte sullo stretto e ha tutte le ragioni, ed è legittimo che lei sia contro il ponte sullo stretto, non voglio cercare di convincerla, ma questa storia del progetto definitivo è ridicola, perché il progetto definitivo sono i tempi che dettano queste. È stato fatto l'annuncio di un inizio di lavori, che è lo spostamento di un tratto della ferrovia, punto. Il progetto definitivo ci sarà tra qualche mese, quando è previsto nella procedura, per cui questa cosa per cui non c'è il progetto definitivo mi pare un'accusa francamente inesistente, ecco. Sì, ma non vedremo nessuna prima pietra, cioè quello che io voglio dire è che l'importante è l'annuncio, lei dice, nella retina politica dell'italiano medio l'importante è che arrivi l'annuncio, perché poi l'italiano medio non legge i giornali. Poi vedremo, Bruno, su questa storia dell'IRAP. Guardi, signor Cruciani, questo accade sempre, anche quando lui fece quella sparata in TV sulla legge che avrebbe fatto l'iniziativa popolare per diminuire i parlamentari, che poi non se ne parla nessuno, anzi sono messi a ridere tutti quanti, però l'importante è che il popolo sente e veda, hai capito come bravo il Berlusconi. È questo che mi dà i nervi. Cioè, il problema in questo paese non è lui, è coloro che lo seguono. Sì, però adesso lasci perdere gli italiani, Bruno. Si concentri su chi fa le proposte. Già nel 97, voglio ricordare, l'ho pescato su internet adesso, Berlusconi disse: si scrive IRAP e si pronuncia imposta di rapina. IRAP, rapina. Titoli del TG5. Napolitano, riforme ormai inderogabili, superare il bicameralismo perfetto, poi l'appello no allo scontro politico. Berlusconi agli artigiani, il governo studia un taglio graduale dell'IRAP fino alla sua soppressione, la CGIL prima lavoratori e pensionati, gli industriali bene, ora i fatti. Bufera, appalti a Napoli, Clemente Mastella al contrattacco, io e la mia famiglia abbiamo le mani pulite, mai preso soldi, solo segnalazioni per la povera gente, la moglie Sandra Lonardo, non mi dimetto. Negligenza, imprudenza, imperizia, duro atto d'accusa per il crollo della casa dello studente, del convitto e dell'università all'Aquila durante il terremoto, 22 gli avvisi di garanzia. Alla Sapienza, a Roma, lo scandalo del professore che nega l'olocausto, lui si difende, erano solo appunti, durissime reazioni della comunità ebraica e del rettore, bada a Dachau, Alemanno si è cacciato. Mamme super impegnate e appassionate di internet, padri che fanno volentieri i mammi, ci si innamora sempre più nella terza età e la Cassazione dice è famiglia dove c'è mutua assistenza, rapporto del TG5. Conto alla rovescia per l'edizione numero 10 del Grande Fratello, si parte lunedì al timone Alessia Marcuzzi, in anteprima uno dei concorrenti della casa. Bene, sentiamo anche il TG1. Messaggio del premier agli artigiani: ridurremo l'IRAP fino all'abolizione, soddisfatta Confindustria, scettici sindacati, il PD solo promesse. Napolitano, le riforme sono inderogabili, superare il bicameralismo perfetto, evitare contrapposizioni pregiudiziali. Inchiesta di Napoli, la moglie di Mastella: collaborerò con i magistrati, l'ex ministro, abbiamo le mani pulite, ho aiutato solo bisognosi. Gli stupri ad Ascoli Piceno, denuncia shock di una minorenne al TG1, ci sono altre vittime ma non hanno il coraggio di denunciare. Fulmine, c'entra il campanile del Duomo di Parma e lo incendia, nessun pericolo di crollo ma dopo il rogo emerge una sorpresa. E Michelle Obama si esibisce con Lula Hoop alla Casa Bianca e torna di moda il cerchio che fece furore negli anni 60. 142.368 precari della scuola che non avranno più un futuro, non avranno più un posto fisso. Nella mia sola Campania ci sono 5.465 precari della scuola che non avranno una cattedra e non avranno un lavoro. E allora il nostro premier oggi non è riuscito a fare il piazzista, perché mentre dice che bisogna valorizzare il posto fisso, il posto di lavoro, che è l'unica certezza e l'unico futuro per i lavoratori, dimentica il nostro premier che ha fatto il 25 settembre del 2009, che vedo qui su questo, sulla copertina di questo disegno di legge, dove vedo questa coppia di fatto tra il presidente Berlusconi ed il ministro Gelmini, dove hanno per l'ennesima volta preso in giro e hanno anche insultato i precari della scuola, perché con questo provvedimento non hanno affatto aiutato la scuola, non hanno affatto aiutato i provvedimenti, anzi l'hanno sfasciata, hanno tolto 8 miliardi di euro alla scuola e dai precari. Perché? Perché il governo Berlusconi toglie alla scuola 8 miliardi e da 5... Dove vai? Dove vai? Vai Barbato! E da 5 miliardi a Gheddafi, perché adesso è salito di nuovo sul predellino Berlusconi e deve costruire un nuovo club, il club dei dittatori, perciò ha dato 5 miliardi a Gheddafi, tipici ai dittatori. Alfredo Barbato, la invito per la terza volta a stare sul tema e invito l'Aula a rispettare il diritto dell'onorevole Barbato a non stromersi. Vabbè, insomma, era da Blob ed è ancora l'intervento di Barbato. Se lo vedete è incredibile, perché è invasato con accanto alcuni altri esponenti, immagino sempre dell'Italia dei Valori, che se la ridono per le mattane e le follie di Barbato, con questi capelli ricci che spiovono sul volto, che calano giù, sembra un ossessionato, una sorta di diavolo con la cravatta gialla. Per carità, non voglio dire che quelli che hanno la cravatta gialla sono personaggi bizzarri o matti, però insomma è un'immagine abbastanza tra l'inquietante e il comico. E a un certo punto Alessandra Mussolini che gli toglie, non so, dei fogli da sotto e gli altri si ribellano. Insomma, scene dal Parlamento italiano che fanno semplicemente pensare che a un certo punto ci vuole una bella sforbiciata di deputati e di senatori, punto e basta. Giovanni da Bergamo, eccoci qui. Barbato, sì, vabbè, io volevo parlare prima di un'altra cosa. Guardi, il discorso della raccolta firme per quanto riguarda appunto il netto donne e Berlusconi, no? Anch'io sono d'accordo con lei, degli interventi assurdi, anche perché ci stiamo indignando, oppure, cioè, stiamo insultando, quelle persone insultano palesemente l'intelligenza delle donne. E mi suona strano come le donne che non rispondono a un attacco simile. C'è bisogno di raccogliere le firme per tutelare le donne, ma stiamo scherzando, le donne secondo me sono tutelatissime in ogni campo in questo momento. Piuttosto, se vogliono... A parte che si dovrebbe ragionare anche sul fatto, lei dice le donne dovrebbero... ribellarsi a appelli di questo tipo, cioè, a me fa paura la categoria donne, insomma, ognuno ha la sua vita, la sua professione, le sue difficoltà. Già il fatto di parlarne così vuol dire quasi discriminarle, cioè, sono una cosa a parte, sono qualcosa di diverso dal genere umano. No, fanno parte del genere umano. Se poi invece, in questo a me dispiace parecchio, è vedere strumentalizzare in maniera becera le donne per attaccare Berlusconi, quello è un altro discorso. Io non sono uno che ha votato per Berlusconi, e per me Berlusconi, adesso io dico una cosa che a lei non piacerà, dovrebbe essere attaccato sul piano politico reale. Cioè, perché non dovrebbe piacermi questa cosa? No, adesso sul discorso le faccio un esempio, sì. Sui rapporti con Mangano, sui rapporti che Mangano aveva con Dell'Utri, di queste cose l'Italia vuole sapere, gli italiani, io che vado a votare vorrei sapere. Sono uno che lei ha votato vuole anche sapere dei suoi rapporti con Mangano, che peraltro sono stati spiegati mille volte, comunque insomma. Ma poi sì, magari arrivano delle nuove notizie, c'è gente che le commenta di nuovo, eccetera. Insomma, poi lei va a votare sulla base di questo, altre persone vanno a votare sulla base di altro. Un attimo solo, resti con me, Giovanni, da Omnibus. Franceschini non c'è più, sparito. Giovanni, prosegua. Ecco, stavo dicendo. Se ci andiamo a leggere gli atti del processo dell'Utri, io dell'Utri non riesco a classificarlo come un santo, un benefattore dell'Italia, come lo stesso Berlusconi lo descriveva. È questo che io è questo come elettore vorrei vederci chiaro in questo. Ho capito, non ho capito. Sul fatto che Berlusconi offende le donne, offende le donne. Ma no, esatto. Va bene, ma ognuno diciamo, come dire, certo, ha il suo modo di essere anti-berlusconiano, come dire, è una battuta, Giovanni. Sì, sì, ho capito. Grazie a lei, buonasera. 28 minuti, prima abbiamo i titoli della 7, sentiamoli, va. Io e la mia famiglia abbiamo le mani pulite, così Clemente Mastella reagisce all'inchiesta su favori e assunzioni in Campania. La moglie Sandra Lonardo, indagata, ottiene un rinvio dell'interrogatorio e si difende su Facebook, mai condizionato nessuno. Berlusconi annuncia l'eliminazione dell'IRAP, l'imposta per piccole e medie imprese. Soddisfatta Confindustria, contraria la CGIL, prima tagliate le tasse a lavoratori e pensionati. Sulla crisi il governatore di Banca Italia Draghi avverte nuovi problemi in vista. Progettisti, ingegneri e un politico. La Procura dell'Aquila ha reso noti i nomi dei 17 indagati per i crolli d'Abruzzo. Tra loro c'è anche il tecnico che la sera del terremoto rassicurò i ragazzi ospiti nella casa dello studente. Sesso, amore e cibo. Ecco la ricetta della felicità secondo Meryl Streep, la signora del cinema con la sua eleganza e ironia, conquista il Festival di Roma dove riceve il premio alla carriera. Un ascoltatore, poi pubblicità, ma rimanete con noi perché fino alle 21 potete intervenire, abbiamo tante cose da farvi ascoltare, ancora ospiti, eccetera. Enrico da Roma, buonasera. Sì, salve, Cruciani. Dica. L'intervento di quel ragazzo, di quel signore di Bergamo mi ha tolto le parole di bocca. Anch'io telefonavo per dire i 100.000 firme e le... E ciò che lei ha citato come interventi si appaiono sicuramente ridicoli e quindi la cosa viene sicuramente sminuita. Mi lasci dire che però stare a dire che in Italia chiunque faccia un appello raccolga 100.000 firme, come lei ha enunciato prima, è un tantinello offensivo. No, basta fare un appello contro Berlusconi, poi naturalmente c'è la Repubblica, per carità, ci sono alcune componenti, e non ho detto ogni appello raccoglie 100.000 firme. Se ci metti insieme Repubblica, un appello sostanzialmente contro Berlusconi, insomma si arriva facilmente a 100.000 firme in questo clima, in questo momento, no? In ogni caso questa è un'azzardata comunicazione circa l'intelligenza, una bella offesa verso l'intelligenza sia di quelli che hanno messo le 100.000 firme di quelli che potenzialmente potrebbero mettere. Guardi, scusa, scusi Enrico, mi perdoni un attimo, io ho semplicemente detto che ascoltando più volte le cose che dicono queste persone, mi riferisco in particolare a Nadia Urbinati e a Michela Marzano che abbiamo avuto nostra ospite, a cui abbiamo cercato di far spiegare la sostanza di questo appello, mi sono cadute le braccia, appunto. Potrò dirlo o no? Se uno non è libero di dire quello che pensa su una persona, è finita, o no? Ouvert la voie ou pas? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que pendant 15 jours, on a assisté à une véritable campagne de manipulation et de désinformation. On a parlé d'intrigue, on a parlé de manœuvre, on a parlé de nomination, on a parlé de choses qui étaient fausses. Mais pour autant, moi, je souhaite défendre mes convictions, le faire au conseil d'administration de l'EHPAD. Je ne cours pas après les titres, je ne cours pas après les honneurs. Mais donc vous êtes... C'est pas ça le sens de mon engagement politique. Et je ne veux pas que ce soupçon puisse peser sur l'engagement. Vabbè, stiamo sentendo la voce di un ragazzo di 23 anni che è il figlio di Sarkozy si batte contro le manipolazioni, dice gli intrighi, quelle cose che la stampa francese e anche alcuni esponenti della maggioranza in Francia hanno scritto e detto negli ultimi tempi, cioè dire che la sua candidatura era calata dall'alto a dirigere un grosso centro alla periferia di Parigi, un grosso centro finanziario, e c'è la rinuncia poi oggi di Jean Sarkozy dopo quello che è successo negli ultimi tempi. È una storia francese che probabilmente interessa in pochi in Italia, ma è sintomatica del fatto che qualche volta si accusa una persona solo perché figlia di... Io sto sentendo questo ragazzo che si è peraltro tagliato i capelli a 23 anni e mi sembra veramente bravo nel modo di comunicare. Poi è evidente che essere figlio del Presidente della Repubblica in Francia non è che possa essere una condanna sin dall'inizio. Sentiamo ancora? Puisque ces critiques ne l'étaient pas non plus. Est-ce qu'il y a de l'amertume? Quel est votre état d'esprit? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a aucune amertume chez moi. Non ho nessuna amarezza. Font partie le du critiche fanno parte del combattimento politico, della lotta politica. Je peux estimer que ma candidature d'élu, que toute candidature à une élection serait légitime. Mais en même temps, mon devoir, c'est de prendre conscience d'une situation qui peut me dépasser, d'en prendre acte. Et je ne suis pas sourd, je ne suis pas aveugle, et je décide en conséquence. Je n'ai aucune amertume, mais naturellement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de ce qui n'est pas un échec, ce qui est une épreuve qu'il faut traverser, qu'il faut assumer. Donc prendo il faut atto della situazione, delle critiche che ci sono state, senza amarezza rinuncio fondamentalmente alla candidatura. 20 e 16, qualche ascoltatore, poi il traffico. Dove andiamo? Chi c'era? Giovanni, provincia di Torino, buonasera. Anzi no, eravamo con Enrico da Roma. Adesso torno subito, Enrico, da lei. Giovanni, provincia di Torino. Sì, buonasera. Sul discorso Mastella, in sintesi, se la segnalazione che succede, come dice lei, ha fatto un commento, sì, nelle aziende c'è la segnalazione, ma è diverso, non c'è una procedura, diciamo, strutturata come nelle... Ma io non so nemmeno se all'ARPAC in Campania esista una procedura per le assunzioni o meno. Io dubito che ci sia questa procedura. Certo, sì, che ci sono delle regole generali che riguardano gli enti pubblici. E poi le regole famose, che del buon senso, no? Che uno fa la selezione. Io dico, va bene, la segnalazione. Se tu mi dici che la segnalazione, io direi, guarda, conosco questa persona, sta cercando, tieni. Punto. Poi le cose seguono il loro corso, succede sempre, capita molto spesso, non bisogna fare i moralisti, tra virgolette, o altro, e succede. Chiaro che se la persona è adatta a quel posto e fra tutti gli altri risulterà, andrà avanti. Semplicemente è stato aggiunto un altro, dicendo, guarda, lo conosco, so le sue capacità o altro. È chiaro che se uno mi dice, io ho una lista di X persone, poi va lì col bilancino a vedere se erano 30, 35, però sta di fatto che invece su 30 ne hanno assunte, allora mi spiace. Io, con tutto quello che dico, bisogna tenere i piedi per terra, bisogna essere realisti, al mondo succede, come se dicessero a me, guarda, ho trovato questo signor Cruciani, scusi se cito lei, però dico, guarda, c'è questo signore che conduce una trasmissione, se hai bisogno per fare questa cosa, lo conosco, vedi, io lo prendo in considerazione, ma da lì, invece a dire, no, io adesso però vedi, ti segnalo e ti assumo, no. Quello no, ma la questione è diversa, Giovanni, qui sono assunzioni a pacchi. Cioè abbiamo a quello spettano 70 segnalazioni, a quell'altro 40, a quell'altro 20, e non è che sono segnalazioni che nella maggior parte dei casi si trasformano poi in assunzioni o temporanee o indeterminate. Cioè la distinzione qui tra il merito e le competenze mi sembra che sia molto molto fumosa. Enrico da Roma, prego Enrico. Eravamo rimasti in sospeso sul fatto che, e quindi faccio una premessa, che io ho trattato male le donne che hanno sottoscritto quella petizione, da cui poi 100.000 firme sulla donna, giusto? No, lei è libero di, come anche io condivido una cattiva opinione circa ciò che ho sentito dire da quelle persone, lei è libero di farlo, e in questo caso anch'io ne approvo la sua, come dire, cattiva opinione. No, io mi riferisco a una frase detta prima, che quando Repubblica fa un appello 100.000 persone firmano, tanto in Italia basta far fare un appello alla Repubblica contro Berlusconi e 20, 30, 40, 100.000 firme arrivano. Sì, questo mi sembra è una abbastanza... bella offesa verso i 100.000 che hanno firmato, ma no, in generale con tutti coloro che in qualche modo credono di far qualcosa mettendo una firma da qualche parte per segnalare qualcosa. Personalmente io sono sicuramente non un fan di Berlusconi, ma personalmente, qualora mi chiedessero di mettere una firma, la metterei, ma solo per un motivo di base, per far capire che esiste un limite. Questo signore che abbiamo come Presidente del Consiglio, a mio parere, ha sorpassato un limite. Metterei una firma anche per quello, anche per le donne. Metterei a questo punto una firma da qualunque parte, purché si faccia capire che il nostro Presidente del Consiglio deve porsi un limite. Ora, questo è chiaro, forse non è l'intento di quei 100.000, no, ma ci vuole una firma, ci vuole una raccolta di firme per dire secondo lei Berlusconi si deve fermare. Sto dicendo alla radio, no, io lo sto dicendo alla radio, lo dico agli amici, lo faccio alla televisione, se potessi metterei la firma. Cioè, io voglio dire, quando lei stigmatizza il fatto che mettere una firma contro Berlusconi diventa una specie di moda, si ponga un problema. Può darsi che buona parte dell'Italia stia cercando di dare un limite ad una persona che l'ha fondamentalmente sorpassato. Vabbè, insomma, poi bisogna essere d'accordo, anche si può discutere sul fatto che questo limite sia stato sorpassato e di quale limite si tratti. Insomma, se ne può discutere, naturalmente. Non è che ci sia qua la verità assoluta. La ringrazio. Enrico, dove andiamo? Barbara da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Allora, io racconto un'esperienza personale. Io, da una multinazionale americana, fui chiamata da quello che era stato il mio capo per molti anni, che era diventato amministratore delegato di una municipalizzata. Sì. E mi disse: vieni, vogliono cambiare. Io andai e mi cambiai regione, per cui arrivai il primo giorno, la prima domanda che mi fece il primo collega che incontrai è: a te chi ti porta? Io, pensando che fosse un modo di dire, era in Toscana, fosse un modo di dire della Toscana con che cosa vai al lavoro, dissi: con la macchina. Le lascio immaginare il quadro. Io in 2 anni ho visto, in tutta franchezza, vedere oggi in prima pagina del Corriere lo scandalo delle raccomandazioni è ridicolo. Cioè, io in 2 anni ho visto veramente entrare persone assunte come dirigenti e in 2 anni io non l'ho mai vista al lavoro. Veramente realtà allucinanti, soprattutto se si pensa che era una municipalizzata, il che vuol dire che gli 8.000 comuni italiani potrebbero avere una situazione simile. Ho capito perfettamente, questo... Barbara, si può sapere che tipo di municipalizzata era? O è? Gestione praticamente dei pagamenti, del diciamo di tutta la struttura amministrativa del comune. Comune di che? Di Firenze? Mi perdoni? Di Firenze? No. Toscana no, non era Firenze. E di conseguenza lei capisce bene che oggi vedere in prima pagina lo scandalo delle raccomandazioni, che tutti sappiamo, perché anche nel paese dove io poi dopo 2 anni io sono scappata, perché, ed è la seconda cosa che volevo dire, io dopo 2 anni sono scappata perché o ci si adegua a quel modus vivendi e ci si adegua a lavorare poco, perché se lavori troppo ti ritroverano, ci si adegua ad abituarsi a vedere le colleghe che partono in 8, 4 ore per fare il regalo alla collega che fa il compleanno in 8, tutto questo tipo di cose, oppure ti mangi il fegato. Al di là però poi delle vicende personali, Barbara. No, la questione, il problema no, della produttività è? All'interno degli uffici. No, ma c'era il punto. La questione qual è? Se una persona ha voglia di lavorare, se una persona è valida e ha voglia di lavorare, deve scappare. Perché mi creda, l'unico modo, se no, è mettersi sul loro livello. Ed è drammatico, perché questa è la nostra pubblica amministrazione. Vabbè, io non credo che sia... generalizziamo, ecco, naturalmente. Però viene veramente un senso di dire, io le posso assicurare, io dopo 2 anni sono dovuta scappare a gambe levate. Perché senta Barbara, ma dov'era questo posto? Dov'era questo posto così terrificante? Mi scusi, dove il merito viene schiacciato? No, guardi, non mi va neanche di dire il paese, perché non mi sembra un piccolo comune, un piccolo paese. No, un capoluogo di provincia. Un capoluogo di provincia. E le posso dire, guardi, che io adesso ho vissuto nel frattempo in vari piccoli centri e la realtà è molto simile, per cui questo è un esempio che ho vissuto. Per cui lei di fronte alle segnalazioni, diciamo, della politica per un ente regionale, nel caso della Campania, lei non si stupisce più di tanto, perché dice: altro che segnalazioni. No, non c'erano le segnalazioni. Cioè, c'erano le persone che arrivavano direttamente con uno status altissimo e di più non si vedevano mai. Targate da un partito, diciamo, no? Targate da un partito, da una persona, da una corrente. Bene, Barbara, grazie. Mi sembra, grazie mille a voi. Mi sembra una situazione così come ce la descriveva prima Claudio Velardi, d'altra parte. Marco da Rimini, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Io ho sentito tutta stasera parlare di Mastella, non è che la cosa Mastella mi sia simpatico, ma però stamattina, sentendo un radiogiornale a Radio 24, parlavano di uno scandalo a Pavia che coinvolgeva Comunione e Liberazione. Non è che a Pavia c'è un pretore della Lega che vuole bruciare, vuole il posto alla regione per sostituire Formigoni? No, Marco, non so di che si tratta. C'è un'inchiesta grossa che riguarda... C'è un'inchiesta grossa che riguarda, però, che la moglie, e il pezzo grasso deve essere di Forza Italia. E del PDL, l'assessore regionale Belli, la moglie è coinvolta in una vicenda che riguarda la bonifica di terreni, eccetera. Non ne parla nessuno. No, veramente ne parlano tutti, non è vero che non ne parla nessuno. Ne parla parlano solo di Mattel, poveraccio. Ma no, quindi... ma è evidente che quando no, viene coinvolto... come sparare sulla Croce Rossa a parlare di Mattel. No, d'accordo, Rimi. E volevo chiederle anche un'altra cosa. Sì, Marco, un attimo però. Lei dice non ne parla nessuno della vicenda che coinvolge una parte del PDL, alcuni elementi, alcuni dirigenti del PDL, sì, il, sì, in Lombardia, sentito... la moglie dell'assessore Abelli. Appunto. È una storia molto diversa da quella della Campania, eh? Io stasera ho passato tutti i telegiornali, che, anche quelli che non guardo mai, sì. TG5, Primo, e non ha trovato nulla, lei dice. E non ho trovato nulla, non so, forse... no, ma se ne è parlato, se ne è parlato forse ieri. Manzolini non è informato. Minzolini, non Manzolini, Minzolini. Minzolini, vabbè. Volevo chiederle un'altra cosa, dica. Che lei è più informato sicuramente. Bah, bisogna vedere. Sì, sì, Frattini ha detto così, che noi manteniamo, il ministro degli esteri, l'onorevole, sì. Ha detto che noi manteniamo i militari in Afghanistan per le prossime elezioni che ci saranno. Certo che se noi facciamo funzionare le elezioni in Afghanistan come queste, siamo proprio fregati, eh? Vabbè, Marco, questa può scrivere a spinoza.it per una battuta, eh? Non lo dico... Magari la prendono. Torniamo sulla vicenda delle minacce a Berlusconi via internet, e non solo via internet. Questa mattina, credo fosse Omnibus, il ministro degli esteri Frattini cosa ha detto? Si è scandalizzato per una casa editrice di Chieti, la quale, sentite... Ma guardi, ministro, l'effetto delle scritte sui muri, scusi, sa, quando io vedo Facebook, ammazziamo Berlusconi, quando vedo una casa editrice, di Chieti, che dice mandateci dei racconti, come muore Berlusconi secondo voi, e ve li pubblichiamo. Questo sta qui, una casa editrice italiana che invita la gente a fare i racconti su come muore Berlusconi. Beh, ragazzi, io sfido chiunque a mettervi nei panni di Berlusconi ad essere anche un po' seccato. Vabbè, il direttore editoriale di questa casa editrice, che si chiama No Ubs, se non sbaglio, è Massimo Pamio, che è un poeta. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Eccoci qui. Pamio, innanzitutto Frattini vi ha fatto una bella pubblicità, secondo me. Questo lo deve ammettere. Splendida, anche se in negativo, insomma, perché... Vabbè, ma lei lo sa bene che le pubblicità in negativo in realtà non esistono, che quelle in negativo sono in positivo per le, a meno che, insomma, a parte casi molto rari, certo, in cui poi si perde qualcosa. Senta, ma è vero innanzitutto questa cosa o no? Dunque, noi abbiamo fatto un concorso che si chiama La notte in cui morì Silvio Berlusconi, che era una delle tantissime iniziative che noi stiamo promuovendo sul nostro sito nobs.it, da poco rinnovato, che fanno parte di una serie di proposte che facciamo per degli scrittori giovani. Ma come vi è venuto in mente? Perché avete pensato alla notte in cui morirà Berlusconi? Ma questo non c'entra niente poi naturalmente con l'omicidio, cioè, perché è stato interpretato come se fosse la notte in cui è stato ammazzato, ma è la notte in cui morì, e nella premessa, nel bando del regolamento, noi diciamo che noi auguriamo al Presidente del Consiglio 120 anni e di raggiungere il suo programma che si era previsto politicamente, anche il programma esistenziale. Quindi 120 anni significa, se il Premier ha 70 anni, i racconti dovranno essere ambientati in un'Italia del 2050. Per farci bene i conti, quindi erano, diciamo, racconti di fantascienza a questo punto, cioè proiettati in un futuro in cui si verificasse questo però, Pamio, evento. Lei si rende conto, ha partecipato, ha compreso il significato, il bando del regolamento, e ci sono arrivati dei racconti bellissimi. Anzi, noi li vogliamo proporre al Premier e al Sole 24 Ore, che ha questa pagina splendida, la pagina più bella della cultura di tutti i quotidiani nazionali, che è il Domenicale. Lo vogliamo proporre al dottor Riccardo Chiaberci, che noi stimiamo moltissimo, e ci sono arrivati dei racconti bellissimi, gliene proporremo alcuni, in cui io penso che il Presidente del Consiglio si rispecchierà e ne gioirà, perché è una persona dotata di senso dell'umorismo, lo sappiamo tutti. Perché cosa c'è in questi racconti? Io mi scusi. Penso che apprezzerà. Ho capito, Bamio, si fermi un attimo. Cosa c'è in questi racconti? In Abruzzo si dice che Bamio, un attimo, sì. Cosa c'è in questi racconti? Lei dice Berlusconi li apprezzerà, cioè di cosa si parla? Perché dovrebbero apprezzarli? Mi scusi, è la notte in cui muore, insomma, è difficile apprezzare una cosa del genere. No, non è la notte in cui muore, ma è la notte in cui viene clonato praticamente, cioè in cui c'è questa trasformazione sua in vari personaggi, insomma, che sono poi questo è uno di questi racconti? Sì, è uno dei racconti. Uno dei tanti, insomma, ecco, ma ce ne sono diversi, insomma, per cui la figura che ne esce fuori è la figura di una persona che cerca di risolvere i problemi di un paese che deve cioè lei mi vuole fare capire che la vostra iniziativa non è un'iniziativa nel solco dell'anti-berlusconismo contro Berlusconi, insomma, no. Cioè questa, purtroppo la nostra iniziativa è andata è caduta in questa rete di clima paranoico dovuto a dei siti, a delle persone che inneggiano la morte di Berlusconi, ma non c'entra nulla, non c'entra assolutamente niente, insomma, era una cosa assolutamente innocua. Innanzitutto un divertissement letterario che quanti sono arrivati? Quanti racconti sono arrivati? Ludici, insomma, ecco, ispirati proprio alla persona, cioè alla persona che è un mattatore, una persona di primo piano, di grande intelligenza, e secondo me le persone dotate di umorismo sono quelle dotate di intelligenza. Quelli che non hanno umorismo non hanno neanche intelligenza. Quindi quanti racconti sono arrivati, Damio? Sono arrivati molti racconti, ma noi li proporremo tutti. A questo punto noi ci impegniamo a mandarli direttamente al Premier, questi racconti. Giudicherà lui se sono dei racconti offensivi o meno a questo punto, perché noi siamo stati coinvolti in questa cosa con insulti proprio da parte di giornalisti, ma una cosa assurda. Chi vi ha insultato? Perché non hanno interpretato e travisato il senso dell'operazione. Assolutamente. No, ho capito, Pamio, chi è che vi ha insultato? Non ci hanno dato neanche diritto di replica. Pamio, chi vi ha insultato? Siccome lei sta parlando qui. Se lei legge i giornali di alcuni quotidiani, oggi Libero ha parlato di siccome noi abbiamo citato in una situazione del genere, e noi come editori siamo rimasti sorpresi dal gossip, perché cioè, chiaramente se avessimo saputo che c'era questo clima non avremmo neanche bandito questo concorso, mi capisci? Quando l'avete bandito? Da una settimana neanche, insomma. Beh, quindi, insomma, non è che l'avete bandito 2 o 3 anni fa, avete approfittato un po' di questo clima, diciamolo. Non lo sapevamo che esistessero queste cose, insomma, perché altrimenti questi siti su Berlusconi poi poteva essere anche frainteso, insomma, cioè, il nostro viveva in un clima di assolutamente di distensione, era per persone pacate e distese, insomma, che sorridono. Senta, a proposito di pacatezza, l'animatore di quel sito sull'uccisione di Berlusconi si difende in questo modo: questo è un gruppo di svago con intento quasi trollesco, un conto è dire Berlusconi ti uccido sommerso di merda, un conto è dare coordinate geografiche e dire mettete una bomba o roba del genere, capite che c'è differenza, se io rido va bene, se non fa ridere la tolgo. Semplice, il gruppo è risorto dall'oscurità per resistere al regime sorridendo. Una risata vi seppellirà. Ricordate la mitica frase di Ugo Tognazzi: rivendico il diritto alla cazzata? Spacciandosi per capo delle Brigate Rosse e facendosi arrestare per finta in un tempo ben più caldo e pericoloso di questo. Quindi il mio intento è di far apparire chi ci minaccia ancora più stupido. L'intento sarcastico credo sia chiarissimo, a meno che qualcuno non voglia trovarci forzatamente un intento minaccioso. Vogliono pur trovare qualcosa per distrarre le persone dalla recente bocciatura del Lodo Alfano per incostituzionalità e dalla sentenza di risarcimento per il caso Mondadori. Spero di essermi spiegato. Vabbè, queste sono le spiegazioni, con tanto di comunicato sembra essere il Papa o un'istituzione, questo animatore del sito su Facebook. Francamente, insomma, al di là del fatto che queste cose siano pericolose, non mi pare una spiegazione molto nobile, o no? Io lei lo chiuderebbe quel sito? oppure, se, oppure se no? Ci sono siti che inneggiano alla morte di qualsiasi persona, non solo del Presidente del Consiglio, ma di qualsiasi persona, io li chiuderei, insomma, perché l'omicidio penso che non sia un evento positivo per chiunque, insomma. Lei pensi se creano un sito in cui si inneggia la mia morte o la sua, insomma. Cioè, sì, però è vero, Panio, che le morti... Non ne saremmo felici. No, insomma, no, le morti non si annunciano via... Certo, si può creare un clima, naturalmente, no? Si può creare un clima. Sì, certo, però cioè, poi bisogna conoscere anche le persone, può darsi pure che abbiano uno spirito goliardico, che sono delle persone che non avevano intenzioni veramente, era solo un gioco, questo non lo possiamo dire, io non lo posso dire. Certo che il titolo di Libero... Stasera mi chiamava un amico e mi diceva, sì, tu sei una persona così pacata, serena, tranquilla, dal punto di vista ineccepibile, dal punto di vista morale, quindi sei stato coinvolto in questa cosa, mi sembra folle. E quindi però mi diceva, scusi, Pamio, mi scusi un attimo, sì. Pamio, concorso sulla morte del CAV, insomma qualche dubbio lo lascia, e lei adesso ci ha spiegato. Era una cosa naturalmente simpatica e divertente. Il problema è che noi abbiamo fatto un nome, in quello abbiamo sbagliato, e sicuramente abbiamo sbagliato. In che cosa? Questo lo devo dire. È perché abbiamo detto la notte in cui morì Silvio Berlusconi. Non dovevamo fare un nome, dovevamo dire un personaggio magari famoso della cronaca. Magari non avreste ricevuto tutte le cose che avete ricevuto. Certo, perché poi chiaramente l'intento era pure quello di fare cassetta, come fa ogni azienda alla fine. Meno male che lei ce lo dice esplicitamente. Comunque, Pamio, la ringrazio, buona serata. Grazie. Lorenzo da Roma, buonasera Lorenzo. Mi sente Lorenzo? Sì, pronto, buonasera. Sì, eccoci, dica. Senta, io volevo fare un intervento su due cose. La prima cosa è che differenzierei, secondo me non l'ha notato nessuno, o comunque insomma è una differenziazione che secondo me bisognerebbe fare, tra raccomandazioni che sono diciamo in qualche maniera stringenti per chi le riceve, cioè nel senso chi il soggetto che deve assumere il raccomandato, e le semplici segnalazioni che sono, diciamo così, magari ammissibili, anche non so, cogenti. Secondo me, ecco, con riferimento alle raccomandazioni, bisognerebbe semplicemente, al di là di pensare di vietarle, che voglio dire, non credo sia possibile, perché come ha detto lei prima, ci sono un po' in tutti gli stati, voglio dire, qui probabilmente in Italia se ne abusa. Io credo che invece bisognerebbe essere totalmente trasparenti, cioè sapere chi è il soggetto che sponsorizza e che si prenda, diciamo, tutte le responsabilità. Chi è il soggetto che sponsorizza, sì. Esatto, il cosiddetto sponsor. Sì, sì. Lo sponsor dovrebbe dichiarare e sponsorizzare sia nel pubblico sia nel privato, magari nel pubblico metterlo come un valore aggiunto. Abbiamo capito, nonostante la linea sia caduta, quello che voleva dire l'ascoltatore, e non è qualcosa di negativo, non ci si arriverà mai, però non è cattiva come idea, non è totalmente bizzarra. Francesca Carla dalla provincia di Milano, eccoci. Buonasera. Dica. Allora, io ho sentito questa sera così parlare di cose, persone che si sentono insultate, raccolta di firme, tutto. Sì, le donne offese da Berlusconi. Però mi domando una cosa, no? Che si domanda? Tutte queste persone che sono ancora nelle tende in Abruzzo. Sì. Adesso fa freddo, mi accorgo anch'io che fa freddo, ma a casa mia ho riscaldamento, grazie al cielo. No? Allora? E anche queste persone, per esempio, ho letto su, mi sembra Repubblica, che in una città, forse Roma, non sono sicura, hanno messo le panchine antibivacco per i barboni, che non vadano più lì a sdraiare. Ma dico, ma cosa si fa per queste persone? Visto che siamo in una società cosiddetta civile, cosa si fa? Sì, però mi scusi, Francesca, certo, sì, queste cose sono urgenti, però mettere adesso, per carità, abbiamo trattato malissimo quelle che hanno promosso l'appello su Repubblica, però insomma adesso una cosa è fare un appello per una cosa di questo tipo, e un'altra cosa sono gli aiuti per l'Abruzzo o per chi è in situazione di indigenza. Insomma, mi sembrano due partite un po' diverse tra di loro. Lei dice la petizione dovrebbe essere fatta per i terremotati abruzzesi che ancora sono sotto le tende, ma io spero che ci sia non una petizione, qualcuno, anzi sono sicuro che c'è qualcuno che se ne occupa quotidianamente. La ringrazio. Antonio da Foggia, eccoci qui. Cruciani? Sì, Antonio, spenga la radio oppure abbassi il volume. Dovrei ricordarmi perché ho chiamato, ma comunque quello che volevo dire è che volevo contestare un po' la posizione sua da un po' di te, o forse da sempre, perché non è da tantissimo che la seguo, rispetto al rispetto ai due modi di interpretare le cose, uno da parte di chi l'ascolta, compreso anche me quindi, e uno da parte di chi fa della politica in genere oppure di questi personaggi. Non ho capito niente, Antonio, però se lei va al sodo così riusciamo a intenderci. Ecco, glielo dico subito. Sì, mi attacchi subito così almeno. Sì, no. In buona sostanza, lei si fa portavoce di gente che, come il personaggio del Marchese del Grillo, dice io so io e voi non siete un cazzo. Cioè, io mi faccio portavoce di chi? Qui non sono portavoce di nessuno. Ma di Mastella. Io portavoce di Mastella. Di, ma no, ma non portavoce in quanto portavoce politico. E che cosa allora? È come se si deve. Cioè io sostengo le ragioni di Mastella, secondo lei? No, lei non sostiene le ragioni di Mastella, ma nemmeno non le sostiene, nemmeno le censura in maniera. Beh, meno male, insomma. In maniera radicale. Meno male, lo deve, Antonio. Lo deve fare a pezzi. Ma perché, ma perché devo fare a pezzi Mastella? Mi scusi, Antonio. Ci si aspetta da un giornalista. Ma perché? Ma quello lei si aspetta da qualcuno. Si legga Travaglio, allora. Si legga Travaglio che sbrana Mastella. Ma non facciamo i tifosi di qualcuno. No, ma io sto dicendo semplicemente: io non sbrano nessuno. Non devo fare a pezzi nessuno. Perché devo fare a pezzi Mastella? È un approccio sbagliato. Io posso criticarlo, ma non farlo a pezzi. Che significa? Mi faccia finire, no? Se io cambio canale e metto a Radio 1, è esattamente, no, più smielata, più ci sono quattro persone che pensano di sapere tutto di tutto, sì. Di economia, di politica, di tutto, cioè come se fossero unti dal Signore. Ed è la stessa cosa. Noi vogliamo che voi giornalisti, voi che fate la cronaca, li dobbiate sbranare queste persone, le dovete fare a pezzi, perché talmente grossa la differenza che c'è, che noi abbiamo piacere che rimangano vivi ma sbranati. Antonio, si tratta di gusti qua. A lei piace? Sa cos'è? Che noi siamo diventati tutti gentili, siamo quelli che devono difendere il posto di lavoro. No, noi non dobbiamo difendere. Ma guardi, lei si sbaglia, perché io non sono affatto gentile. Lo so, ma guardi, io ma infatti parlo con lei e non parlo con altri. In vita mia è la prima volta che io intervengo da qualche parte. No, io la ringrazio, Antonio, però il problema è questo: se lei mi chiede di fare a pezzi Mastella perché Mastella viene indagato per raccomandazioni eccetera, no, io non lo faccio a pezzi. No, per quello che dice, certo che lo critico perché la raccomandazione ai poveri o la segnalazione dei poveri eccetera è una cosa ridicola. Noi abbiamo poi degli interventi che dicono, sa, c'è differenza tra raccomandazione e segnalazione. Ma che stiamo dicendo? Ma se, no, quello è assurdo, è la stessa cosa, evidentemente. Ma stiamo scherzando, la segnalazione e la raccomandazione che la fa Mastella. Beh, vedi, Antonio, che se entriamo nel merito siamo d'accordo, però. Sì, ma io parlo con lei perché fondamentalmente lei è in sintonia con chi parla, no? Per lei. Però la grinta, Cruciano, la grinta. Antonio, la grinta che significa? Che mi devo dire? La grinta. Con le persone per farsi sentire bisogna litigare. Ma guardi che io litigo, Antonio, io mi appassiono, sì, ma io la mia passione litigo ogni sera, Antonio, forse lei mi ascolta poco. Guardi, voi avete, no, io l'ascolto. Le assicuro che magari non mi arrabbio. Io ascolto lei e ascolto il CD dei Pink Floyd, per cui. Fantastico. Fantastico. Quindi, no, però Antonio, mi scusi, e naturalmente poi dipende, evidentemente mi arrabbio sulle cose per cui no, secondo lei non mi dovrei arrabbiare, magari non mi arrabbio con le persone. La chiamo perché le voglio bene, Cruciani. Grazie, Antonio. No, perché io voglio bene, le voglio bene perché lei si deve appassionare di più. Non mi faccia commuovere però. No, non si deve commuovere, lei si deve appassionare di più. Ma io sono appassionatissimo. Ha sentito come ho trattato male quelle donne che hanno fatto l'appello perché Berlusconi le tratta male? Sì, ma è generico le donne che fanno l'appello. No, due, ho parlato di due persone, certo, non sono così conosciute come Mastella. Ecco, sì, ma Mastella se lo merita perché lui vuole andare a quelli che è il calcio, vuole andare lì. Una persona che vuole fare, merita gli schiaffoni sulla bocca. Ne sta prendendo però di schiaffoni sulla bocca. Sì, ma quindi quel signore che ha chiamato prima, già Mastella poverino è il vaso di coccio, ma sarà anche una testa di coccio Mastella. A noi non ce ne frega. Mastella percepisce dei proventi, dei guadagni, dei denari che non... Un essere umano come noi che ci dobbiamo difendere il famoso posto di lavoro, io dico invece che ci dobbiamo difendere lo stipendio, non il posto di lavoro, perché per questi signori il posto di lavoro, anche da 700 euro, bisogna difenderlo e non esiste. No, Mastella prende talmente tanti soldi che deve rischiare come un corridore automobilistico. No, ma che debba rischiare è vero, che prende tanti soldi rispetto a cosa, Antonio? Dipende qual è il metro, eh? Rispetto a che al comune mortale certamente alla gente sì. Che la chiama, vabbè, è certo, Antonio, ma al suo alla gente che parla con lei, certo, per sfogare, certo, le proprie frustrazioni, no? Certo, noi, certo. Ecco, lei si deve fare, come dire, portavoce invece di questa gente che tutto sommato a volte c'ha pure le palle girate, no? E sentire i qualunquisti che sono proprio i politici, no? Lei vede Franceschini sembra l'enfant prodigio che no, noi siamo, dobbiamo migliorare noi, ognuno di noi, Cruciani, lei prima di tutto. E lei perché pensa che sbranando delle persone, attaccando delle persone, miglioriamo? Le prende di pelle, le migliora, guardi, le migliora. Altrimenti noi vivremo sempre con Crepè per televisione, Morelli. Per carità, con tutto il rispetto, no, Sgarbi, non mi tocchi Sgarbi. Cruciani, lasciamo traccia di noi. Qualsiasi cosa, una piccola cosa, ma lasciamo traccia di noi. E con questo concludo, Antonio. Lei ha rubato 6-7 minuti agli ascoltatori. Il suo intervento è stato molto bello. Marcello, provincia di Roma, Giovanni da Parma, Marco da provincia di Como, Raffaele da Brindisi. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao. La Zanzara.